Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, questa volta Globetrotter 24, una meta molto cara sia a me che ad Annarita, perché questa volta parliamo di Grecia. Parliamo di isole però, Anna, questa volta. Io ti porto in un'isola molto bella, anche molto famosa, perché in tutti i dépliant pubblicitari della Grecia avrai visto la spiaggia del relitto. L'isola dove ti porto è Zante. Valeria, sono riuscita a scovare un'isola della tua Grecia dove io sono stata e tu no. E allora ecco che in questa puntata ti racconto io le sorprese di Zante, Zacinto, dove sono stata tantissimi anni fa, scelta per la strafamosa spiaggia con il relitto che tutti conoscono e che pensa io sono riuscita solo a vedere dall'alto in un giorno di mare particolarmente mosso. La spiaggia del relitto Navaggio è considerata non solo la spiaggia più bella di Zante, ma anche una delle più belle della Grecia e del Mediterraneo. È incastonata fra altissime pareti di roccia bianca quasi verticali lungo la costa occidentale dell'isola, che è la zona un po' più aperta e quindi dove il mare è tradizionalmente più mosso. Al centro della piccola lingua di sabbia bianca si trovano i resti di una barca di contrabbandieri di sigarette naufragata nel 1983, e con il passare degli anni il relitto è stato piano piano ricoperto in parte dalla sabbia e ora sembra quasi una strana creatura che abita la baia. La spiaggia è raggiungibile esclusivamente via mare, utilizzando anche i piccoli tour giornalieri in partenza da Porto Vromi. Sono delle specie di taxi boat che sono organizzate da marinai locali. È consigliabile visitare la spiaggia al mattino molto presto, con pochi turisti e mare calmo. Imperdibile è la vista, quella che ho fatto io, della spiaggia dall'alto della scogliera, perché appunto in 15 giorni io sia noleggiando personalmente una barca e sia con l'organizzazione dei tour locali non sono mai riuscita a raggiungerla per il mare troppo mosso, e allora negli ultimi giorni sono riuscita a vederla dalla terrazza panoramica sospesa che si affaccia sulla baia, e ti assicuro che comunque ne vale la pena perché la vista è davvero fantastica. A Zante sono arrivata via mare, però oggi c'è un aeroporto che all'epoca non c'era e che si trova a 6 km a sud della città di Zacinto e si affaccia sulla baia di Laganà, che è la più famosa. Completamente rinnovato lo scalo nel 2008, è moderno ed è collegato con voli diretti con molti aeroporti italiani: Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna. Inutile che ti dica che l'altro motivo per cui Zante mi aveva particolarmente incuriosito era l'ode di Ugo Foscolo a Zacinto, originariamente conosciuto come "Né più mai toccherò le sacre sponde", ed è uno dei sonetti più celebri di Foscolo, scritto a Milano. Il sonetto è dedicato a Zante, dove Foscolo nacque. La città di Zacinto, e questa è un'altra cosa particolare, è l'unico centro che puoi visitare quando vai sull'isola, perché gli altri comuni dell'isola, che sono tanti, sono però molto piccoli. Il ricordo di Foscolo è presente in piazza Solomos, un busto in suo onore, e poi si può vedere nella via che è a lui dedicata, dove sorgeva la casa appunto in cui visse, il cenotafio di Foscolo con la statua dell'angelo piangente. Perché tranne che a Zacinto città gli altri piccoli comuni non hanno un centro, ma ci sono una serie di case sparse qua e là? Pensa che questo me lo raccontò la padrona della casa che avevo affittato nei 15 giorni in cui sono stata a Zante, e la cosa poi mi è rimasta particolarmente impressa. Zante ha subito due gravi terremoti nell'estate del 1953 che causarono la totale distruzione delle infrastrutture dell'isola. Il più distruttivo di questi terremoti, avvenuto il 12 agosto, fu, pensa, di 7,2 gradi sulla scala Richter, e rimasero in piedi di tutta l'isola solo tre edifici: la cattedrale di San Dionisio, il palazzo della Banca Nazionale e la chiesa di San Nicola del Molo. La ricostruzione dell'isola poi fu soggetta ad un severo regolamento antisismico. Le scosse ancora oggi ci sono in una zona particolarmente sismica, ed è per questo che non c'è un vero e proprio centro, ma le case sono un po' sparse di qua e di là. Paradiso per i bambini è la zona sud-occidentale dell'isola, dove si trova il Parco Nazionale Marino di Zante e dove si possono trovare le tartarughe Caretta Caretta. È una specie in pericolo anche a causa del turismo e dell'inevitabile inquinamento che ne consegue. Tuttavia si possono ancora visitare, ci sono dei tour organizzati e io mi ricordo di averle viste. Ogni anno, a partire da giugno, le tartarughe femmine arrivano sulle spiagge meridionali dell'isola per sotterrare le loro uova nella sabbia, che poi vengono segnalate per evitare appunto che i turisti le possano calpestare. Sull'isola, e questa è un'altra cosa che fa molto piacere ai bambini, c'è anche la leggendaria foca monaca, che vive per lo più a nord ed è comunque estremamente difficile vedere, solo i più fortunati potranno avvistarla. Inutile dirti che i costi sono quelli di una vacanza greca e quindi sono molto contenuti. E brava Annarita, sei riuscita a scegliere un'isola che non ho visto. Vedi, il tuo grande amore per la Grecia non è stato facile, però ci sono stata io a Zante e tu no. No, però vedrai che prima o poi colmerò questa lacuna, perché quella spiaggia lì la voglio andare a vedere. Però voglio andare in un momento in cui sia davvero vuota, così come si vede sulle immagini, le immagini da cartolina. Mi piacerebbe molto andarla a vedere quando è completamente libera. A questo punto però, e anche per la Grecia, noi abbiamo costretto Salvatore Carruba a indicarci consigli di lettura e di autori. Zante, l'antica Zacinto, è la patria di Ugo Foscolo, che può sempre sorprendere in una eventuale rilettura estiva. Vi consiglio di riprendere in mano le ultime lettere di Jacopo Ortis e naturalmente le poesie, trovate le edizioni Mondadori o Rizzoli. Tra queste poesie c'è un celebre sonetto alla sua isola, che appunto è Zante, è un sonetto peraltro scritto a Milano. Di Zacinto o Zante aveva parlato anche Omero nell'Iliade e anche nell'Odissea, accompagnando spesso con l'aggettivo boscoso il nome dell'isola. Dall'altra parte del Peloponneso ci sono le Cicladi, con Santorini, Milo, Nasso, Paro, Antiparo, e a Santorini c'è una delle più belle librerie del mondo, dicono, per la posizione in cui si trova. Si chiama Atlantis e ha anche un editore, Atlantis Books. È stata aperta da un gruppo di ragazzi inglesi e in un'isola delle Cicladi si svolge Naufraghi di Folco Quilici, pubblicato da Mondadori. Questo parla di un naufragio in un'isoletta cicladica, dunque al centro di un traffico marinaro, sempre molto intenso, che però sembra quasi ignorare la sorte dei due naufraghi. E da qui nascerà l'inizio di un'avventura misteriosa che fa riscoprire ai due ragazzi protagonisti l'origine dei miti del Mediterraneo. Ad Andros invece si svolge uno dei libri che ha avuto maggiore successo in Grecia negli ultimi anni, L'isola dei Gelsomini, di Ioanna Kanistiani, la più importante scrittrice greca contemporanea, che qui fa del paesaggio cicladico quasi il contrappunto dei sentimenti dei protagonisti. Valeria, è un paese che conosci bene e che ami in maniera particolare. Ci sono sicuramente delle curiosità e delle cose strane da fare che siamo riusciti a scovare anche in Grecia. Allora ascoltiamole insieme. Lo stadio Panathinaikos è uno degli impianti sportivi più antichi al mondo e ancora funzionante. Nel 560 a.C. il tiranno Pisistrato fece erigere in una zona fuori dalle mura cittadine, ricca di vegetazione ed acqua, alle pendici del colle Ardettos, uno stadio dove ospitare i giochi panatenaici. Giochi che si disputavano ogni 4 anni ad Atene. Lo stadio deve il suo nome alla misura adottata per la pista. Era lunga infatti uno stadio, cioè 600 piedi, 185 metri. In Tessaglia, nel bel mezzo della Grecia continentale, in un luogo che non a caso l'UNESCO ha deciso di includere nella sua ambitissima lista, sorgono le Meteore. Un paesaggio a tratti lunare formato da imponenti pinnacoli di roccia levigata dove ogni anno spunta un monastero. I primi eremiti arrivarono nell'area nell'undicesimo secolo alla ricerca di un luogo in cui trovare isolamento spirituale. Le cavità tra le rocce, che raggiungevano esclusivamente con l'aiuto di corde e scale removibili, erano l'ideale. Soltanto in un momento successivo, a partire dal XIV secolo, vennero costruiti dei monasteri sulla sommità delle rocce. Inizialmente erano 24, oggi ne sono rimasti soltanto 6 e sono tutti visitabili. Visitate Maratona, una località nel sud della Grecia da cui lo sport della maratona prende il nome. Le origini di questo sport, che è anche una disciplina olimpica, risalgono al 490 a.C. Nella storia raccontata da Erodoto compare la figura di Filippide, di professione emerodromo, ovvero l'emissario di generali e politici, che trasmetteva i messaggi semplicemente correndo da un punto all'altro della Grecia. In quella occasione, Filippide percorse di corsa il tratto da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria degli ateniesi sui persiani. Nei pressi di Galatas si può visitare la famosa Lemonodassos, foresta di limoni, dove si trovano decine di migliaia di alberi, vari mulini ad acqua, torrenti e una piccola chiesa. Vari artisti hanno celebrato la bellezza davvero unica della foresta di limoni, tra cui lo scrittore Cosmas Politis. Nella zona sorgevano varie famose taverne, ma col tempo ne sono rimaste davvero poche. Anna, prendo nota. Per il momento però ci dobbiamo fermare. Appuntamento tra pochissimo. Globetrotter 24. Ben ritrovati. Stiamo parlando della Grecia, una meta fantastica sia d'inverno che d'estate, perché è bella anche d'inverno la Grecia. Però noi abbiamo scelto delle mete tutte vacanziere da mare. Tu anche che cosa hai scelto? Diciamoci anche la verità, Anna, in alcune isole greche l'inverno non arriva mai. Quello anche è vero, insomma, e l'inverno non è quello che intendiamo noi. E non sempre nemmeno ad Atene, anche se bisogna dire che l'anno scorso per esempio è caduta la neve, quindi anche Atene può riservare molte sorprese. Dove mi porti? Io ti porto nelle Cicladi, ma non quelle più conosciute. La Grecia è per chi ha pazienza, perché la Grecia e i greci sono slow, soprattutto d'estate, soprattutto se la vostra meta sono le isole. Partiamo dall'inizio. Le isole greche, nessuna esclusa, ospitano un notevole numero di aeroporti. Da quest'anno però, a causa modifica del regime fiscale, è possibile che i costi siano aumentati. Nelle Cicladi potete atterrare a Mykonos, a Santorini, a Naxos con voli diretti, a Paros, Siros con voli interni. Prima di decidere però su come raggiungere le isole, fatevi due conti sia sul costo che sulla distanza, perché a volte può essere meno costoso, anche se magari un po' più lungo, volare su Atene e poi prendere una nave veloce dal Pireo, ormai perfettamente collegato tra l'altro all'aeroporto attraverso la metropolitana. Tra l'altro su Atene si trovano tariffe di tutti i tipi, cosa che invece non vale per le isole, a meno che non si acquisti il biglietto mesi e mesi prima. A questo proposito però vorrei dirvi la mia. Per esperienza personale ho notato che comunque acquistare il biglietto tra le 6 e le 4 settimane prima della partenza si può rivelare abbastanza vantaggioso. Io di solito scelgo di atterrare ad Atene, dormo una notte nella capitale greca, tanto per non saltare il giro all'Acropoli, e poi la mattina dopo prendo la via del mare. Il sito migliore per scegliere i traghetti è openseas.gr. Ecco, a questo punto armatevi di tanta pazienza, perché anche se è estate, anche se il turismo è una delle prime voci dell'economia greca, i traghetti non ci sono tutti i giorni, nemmeno per le isole maggiori, situazione resa ancora più difficile dalla crisi, quindi calendario alla mano sia per l'andata che per il ritorno. I collegamenti, insomma, non sono il pezzo forte della Grecia. Il terzo forte invece sono le isole stesse, piccole o grandi che siano. Questa volta mi sono concentrata sulle piccole Cicladi. Per le grandi e più movimentate, almeno per quanto mi riguarda, non ho più l'età. Ma al di là delle considerazioni sull'età, le piccole offrono meno dal punto di vista dei servizi e della vita notturna, ma davvero aprono il cuore con il panorama. Spiagge isolate, poco affollate, un'acqua sempre cristallina. Se siete in cerca della comodità a tutti i costi, direi di no, ma se siete in cerca di un po' di silenzio, allora sì. Però comunque ci sono anche delle vie di mezzo. Per esempio, Antiparos, lo dice il nome stesso, si trova di fronte Paros, ci si arriva con un traghetto che impiega 10 minuti da Paros, è abbastanza grande, tanto che l'affitto di una macchina è assolutamente necessario, ha una spiaggia attrezzata molto molto carina, 5 euro a lettino. Devo dirvi che quando mi hanno detto il prezzo io quasi non ci credevo. In compenso però il bar ristorante alle spalle di questa piccola baia ha dei prezzi da spiaggia della Sardegna o della Puglia. Un ristorante però davvero molto buono. Tra le spiagge più belle e anche più adatte ai bambini vi segnalo la spiaggia dei nudisti. Non vi formalizzate, di nudisti non ce ne sono poi molti e comunque i bambini si formalizzano molto meno di noi adulti. La spiaggia è incantevole e soprattutto l'acqua è poco profonda per un tratto molto esteso. Verso sud, di fronte alla zona di Agios Georgos, c'è l'isola di Despotico, piccolissima e disabitata. D'obbligo il giro in barca perché i fondali meritano. C'è una moderata vita notturna, la Cora si anima verso sera, molti localini più o meno alla moda. Insomma, se temete la noia, ad Antiparos non ve ne dovete preoccupare perché l'offerta non manca. Diverso il discorso per le più piccole, fatta eccezione per Koufounissi, diventata ormai una star. Le mie proposte sono Scinoussa e Iraklia, sono quasi sconosciute, eppure sono due piccole perle secondo me. L'isola grande più vicina è Naxos, ma è lontana abbastanza per non sentire nemmeno l'eco. Già quando si arriva al porto di Scinoussa ci si potrebbe innamorare e decidere di restare lì tutto il tempo. Un bar-ristorante con sedie verde chiaro sulla strada e sulla sinistra una piccola spiaggia riparata da alberi che assicurano l'ombra tutto il giorno. Considerate che i porti in queste isole sono poco più che una banchina e più o meno arrivano due traghetti al giorno. La Cora è più in alto e in effetti raggiungerla potrebbe essere faticoso. La attraversa una strada asfaltata per 300 o 400 metri, pochissimi negozi, insomma nessuna distrazione. Di ristoranti ce n'è e si può scegliere tra i più tipici e i più sofisticati. Prezzi contenuti e vista davvero a volontà. Di spiagge non ce ne sono moltissime, ma tutte molto belle. Volendo si può girare a piedi, altrimenti è possibile affittare motorini o quad. Macchine da affittare non ce n'è. Il neo poi è sempre lo stesso. I greci non vanno d'accordo con le carte di credito e da quando sono in crisi economica questo rapporto è diventato ancora più difficile. A Scinoussa io ho lasciato un pezzettino di cuore, ma devo dire che anche Iraklia merita. Non aggiungo altro sul mare perché ogni osservazione sarebbe superflua, se non che io sono riuscita a vedere sia tartarughe marine che delfini. A Iraklia di core ce ne sono due, una più vicina al porto, con diversi servizi, compreso il medico tutte le mattine, e si può scegliere di affittare qui uno studio in modo da non avere più bisogno di nulla, tutto a portata di mano e di mare. Altrimenti, sull'unica strada che attraversa l'isola, ci sono altre soluzioni, più spettacolari direi, perché la strada sale e il panorama è davvero incantevole, con l'orizzonte disseminato di isolotti. Quasi al termine della strada c'è l'altra Cora, più interna, più lontana dal mare, con un ritmo ancora più lento e delle bougainville da fotografare. Niente macchine da affittare nemmeno a Iraklia, solo quad e motorini.